Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, traduzione di Alfredo Polledro. È un uomo generoso il nostro romantico e il primissimo briccone fra tutti i nostri bricconi. Ve l'assicuro, perfino per esperienza. Tutto questo si intende se il romantico è intelligente, cioè, che dico mai, il romantico è sempre intelligente. Volevo osservare soltanto che, sebbene ci siano stati fra noi dei romantici imbecilli, questo però conta e unicamente perché essi, anche nel pieno delle forze, degeneravano per sempre in tedeschi e per conservare più comodamente il loro oggettino prezioso, si stabilivano in qualche luogo laggiù, per lo più a Weimar o nello Schwarzwald. Io, per esempio, disprezzavo sinceramente la mia attività di impiegato e non ci sputavo su soltanto per necessità, perché ci stavo io e ricevevo del denaro a questo scopo. Ma in definitiva, però, notatelo, non ci sputavo su. Il nostro romantico c'è caso piuttosto che impazzisca, fatto che del resto accade assai di rado. Ma ci sputa su, se non ha in vista un'altra carriera. E a calci non lo scacciano mai. Ma tutt'al più lo conducono al manicomio in veste di re di Spagna. E anche questo, se è proprio molto impazzito. Ma da noi non impazziscono solo i debolucci e i biondini. C'è invece un numero incalcolabile di romantici ai quali toccano in seguito dei gradi importanti, una multilateralità straordinaria e che ha attitudine alle sensazioni più contraddittorie. Già allora ne ero confortato e anche ora sono della stessa idea. Per questo appunto ci sono da noi tante nature generose che perfino nell'estrema abiezione non perdono mai il loro ideale, e benché non muoverebbero nemmeno un dito per questo ideale, benché siano briganti e ladri matricolati, pure rispettano fino alle lacrime il loro primitivo ideale e nell'anima sono straordinariamente onesti. Sì, signori. Solo fra noi il più matricolato mascalzone può essere compiutamente, perfino altamente onesto nell'anima, nello stesso tempo non cessando affatto di essere un mascalzone. Lo ripeto, ad ogni piè sospinto dai nostri romantici escono a volte dei bricconi talmente attivi, la parola briccone la uso amorevolmente, e si rivelano tutto a un tratto un tal senso della realtà e una tale conoscenza di quanto è positivo che gli attoniti superiori e la gente nel vederli non possono che schioccare la lingua stupefatti. Multilateralità davvero sbalorditiva, e Dio sa in che cosa essa si convertirà e trasformerà nelle prossime circostanze, che cosa ci promette nel nostro avvenire. E il materiale non è cattivo. Non è per un patriottismo ridicolo o campanilistico che parlo così. Del resto, sono sicuro che voi pensate di nuovo che io dica per ridere. E chissà, forse è anche il contrario. Cioè, siete sicuri che io pensi davvero così? In ogni caso, signori, entrambe le vostre opinioni le stimerò un onore e un piacere particolare per me. E perdonatemi la mia digressione. Coi miei compagni, si intende, non mantenevo l'amicizia e ben presto interrompevo i rapporti e, a causa dell'ancora giovanile inesperienza di allora, smettevo perfino tutti salutarli, come per tagliare i ponti. Questo, del resto, mi accadde in tutto una sola volta. In generale, ero sempre solo. A casa, in primo luogo, più che tutto, leggevo. Avevo voglia di soffocare con sensazioni esteriori tutto ciò che ribolliva incessantemente dentro di me. E fra le sensazioni esteriori rientrava nelle mie possibilità soltanto la lettura. La lettura, naturalmente, mi aiutava molto. Mi agitava, mi dilettava. Mi tormentava, ma di tempo in tempo mi veniva tremendamente a noia. Avevo pur sempre voglia di muovermi e tutt'a un tratto mi affondavo in un'oscura, sotterranea, disgustosa. Non dico depravazione, ma depravazionucola. Quelle passionucole in me erano acute, cocenti, per via della mia perpetua morbosa irritabilità. Avevo degli slanci isterici, con lacrime e convulsioni. Oltre la lettura, non avevo dove andare, cioè non c'era nulla che allora io potessi rispettare nel mio ambiente e verso di cui mi sentissi attratto. Per di più, mi ribolliva dentro la malinconia. Mi veniva un'isterica sete di contraddizioni, di contrasti. Così mi buttavo alla depravazione. Non è affatto per mia giustificazione che ora ho parlato. No. Ho detto il falso. Io volevo proprio giustificarmi. È per me stesso, signori, che scrivo questo, appunto. Non voglio dire il falso. Ho dato la mia parola, non voglio dire il falso. Mi davo alla depravazione, solitariamente, io, di notte, di nascosto, pavidamente, sudiciamente, con una vergogna che non mi lasciava nei momenti più ripugnanti, che anzi in quei momenti giungeva fino alla maledizione. Già allora portavo nell'anima mia il sottosuolo. Avevo una tremenda paura che in qualche modo mi vedessero, mi incontrassero, mi riconoscessero, e giravo per vari luoghi molto oscuri. Una volta, passando di notte davanti ad una trattoriuccia, vidi dalla finestra illuminata come alcuni signori se le davano con le stecche presso il biliardo e come uno di essi fu calato giù dalla finestra. In un altro momento ne avrei provato molto disgusto, ma allora tutto a un tratto ebbi un momento in cui invidiai quel signore che era stato calato giù e lo invidiai a tal segno che entrai perfino nella trattoria, nella sala del biliardo. Chissà, pensavo, me le darò anch'io e anche me mi caleranno dalla finestra. Non ero ubriaco, che volete. La malinconia può rodere fino a questo grado di isterismo, ma la cosa si risolse in nulla. Risultò che anche di saltare dalla finestra non ero capace e me ne andai senza darmele con nessuno. Mi mise a posto là, fin dal primo passo che feci, un ufficiale. Stavo in piedi accanto al biliardo e nella mia ignoranza stavo sbarrando la strada mentre quello aveva bisogno di passare. Mi prese per le spalle e in silenzio, senza avvertirmi e senza spiegarsi, mi spostò dal punto dove stavo verso un altro e passò come se nemmeno mi avesse notato. Avrei perdonato perfino le busse, ma in nessun modo potevo perdonare che mi avesse fatto cambiar posto e non mi avesse notato in modo così assoluto. Lo sa il diavolo che cosa avrei dato allora per un vero, un più corretto litigio, più decoroso, più, per così dire, letterario. Avevano agito come con una mosca. Quest'ufficiale era alto circa 1,90. Io, invece, sono un uomo bassotto e mingherlino. Il litigio, del resto, era nelle mie mani. Bastava protestare e, naturalmente, mi avrebbero calato dalla finestra. Ma io mutai pensiero e preferii eclissarmi rabbiosamente. Uscii dalla trattoria turbato e agitato, andai diritto a casa e il giorno dopo continuai nella mia depravazionuccola, ancora più timido, più avvilito e più triste di prima, come chi dicesse con le lacrime agli occhi. Ma tuttavia continuai. Non pensate del resto che mi fossi spaventato dell'ufficiale per vigliaccheria. Non sono mai stato vigliacco nell'anima, sebbene abbia continuamente avuto paura di farlo. Ma aspettate un poco a ridere, aspettate. La cosa ha una spiegazione, e per tutto ho una spiegazione, e siatene sicuri. Oh, se l'ufficiale fosse stato di quelli che consentivano a battersi in duello. Ma no, era precisamente uno di quei signori, oibò, da tempo scomparsi, che preferivano agire con le stecche da biliardo, o come il tenente Pigorov di Gogol, rivolgendosi ai superiori. Ma in duello non si battevano, e un duello con noi altri borghesi l'avrebbero considerato in ogni caso come sconveniente, e in generale poi consideravano il duello come una cosa inconcepibile, da liberi pensatori, da francesi, ma per loro conto offendevano abbastanza spesso, specialmente nel caso in cui avessero una statura di 1,90. Ebbi paura allora, non per vigliaccheria, ma per la più illimitata vanità. Non mi spaventai di quella statura di 1,90, né del fatto che mi avrebbero picchiato fino a farmi male e calato dalla finestra. Di coraggio fisico, in verità, ne avrei avuto a sufficienza, ma non ebbi a sufficienza il coraggio morale. Mi spaventai del fatto che tutti i presenti, cominciando dallo sfrontato segnatore fino all'ultimo infrollito e pustoloso impiegatuccio che stava lì a far l'adulatore, col suo colletto coperto d'unto, non avrebbero capito e mi avrebbero deriso quando avessi protestato e mi fossi messo a parlare con loro in linguaggio letterario. Perché infatti sul punto d'onore, cioè non sull'onore, ma sul punto d'onore, point d'honneur. Da noi ancora adesso non si può discorrere altrimenti che con linguaggio letterario. Nel linguaggio comune del punto d'onore non si fa cenno. Io ero pienamente sicuro Ecco, ecco il senso della realtà, nonostante tutto il romanticismo. Che loro tutti sarebbero semplicemente scoppiati dalle risa. E l'ufficiale non mi avrebbe picchiato semplicemente, cioè in modo non ingiurioso, ma senza fallo mi avrebbe preso a ginocchiate, facendomi girare a questo modo intorno al biliardo, e solo più tardi avrebbe magari avuto pietà di me e mi avrebbe calato dalla finestra. Si intende che questa miserabile storia per me non poteva finire con questo solamente. Poi incontrai sovente per via quell'ufficiale e lo ravvisai bene. Non so però se lui mi riconoscesse. Probabilmente no. Lo desumo da alcuni indizi. Ma io lo guardavo. Lo guardavo con rancore e con odio. E così continuò. Continuò. Per vari anni. Il mio rancore, anzi, si fortificava. Si infittiva con gli anni. Da principio io, alla chetichella, cominciai ad assumere informazioni su questo ufficiale. Ciò m'era difficile, perché io non conoscevo nessuno. Ma una volta qualcuno per via lo chiamò col cognome, mentre gli andavo dietro di lontano, come se fossi legato a lui. E così appresi il suo cognome. Un'altra volta lo seguì fin proprio al suo alloggio e per 10 copeche seppi dal portinaio dove abitava, a che piano, se stava solo o con qualcuno. Insomma, tutto ciò che si può sapere da un portinaio. Una mattina, sebbene non avessi mai fatto il letterato, mi venne a un tratto l'idea di descrivere questo ufficiale in forma accusatrice, in caricatura, in forma di racconto. Come delizia scrissi questo racconto. Accusai, calunniai, perfino un poco. Il cognome da principio lo alterai in modo che si poteva subito riconoscere, ma poi, dopo matura riflessione, lo cambiai e mandai lo scritto alle Otecietsvenie Sapischi. Ma allora non si facevano ancora accuse e il mio racconto non lo stamparono. Questo mi fece molto dispetto. A volte il rancore mi soffocava addirittura. Finalmente mi decisi a sfidare il mio avversario a duello. Gli feci una bellissima e attraente lettera, supplicandolo che mi facesse le sue scuse. In caso di rifiuto, poi, accennavo abbastanza fermamente a un duello. La lettera era fatta in modo che se l'ufficiale avesse appena appena capito il bello e il sublime, di sicuro sarebbe corso da me per buttarmisi al collo e offrirmi la sua amicizia. E come sarebbe stato bello! Avremmo cominciato una vita! E lui mi avrebbe difeso con la sua imponenza. Io l'avrei nobilitato con la mia levatura. Beh, e anche con le mie idee. E quante cose sarebbero potute accadere. Figuratevi che allora erano passati già 2 anni da quando mi aveva offeso e la mia sfida era un mostruoso anacronismo. Nonostante tutta l'abilità della mia lettera, che spiegava e mascherava l'anacronismo. Ma sia lodato Iddio. Ringrazio tuttora l'Onnipotente fra le lacrime. La mia lettera non la mandai. Un gelo mi percorre la pelle. Quando ricordo quello che ne sarebbe potuto venir fuori, se l'avessi mandata. Thank you.